Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: non da tregua alla Grecia, ma non ce ne occuperemo in maniera estesa oggi. Un'altra scoppola, diciamo così, sulla borsa di Atene. Nuovo tonfo, ha perso quasi l'8%, terza seduta consecutiva in forte calo, sempre sui timori per le elezioni anticipate, ma soprattutto per l'esito di queste elezioni anticipate, che secondo tutti gli exit, tutti i sondaggi, soprattutto se si tenessero adesso, vedrebbero una netta affermazione della sinistra di Tsipras. Tra l'altro, come ricordavamo, se poi il governo di Samaras dovesse adottare quanto chiesto dalla Troika, la vittoria dell'estrema sinistra sarebbe ancora più forte. Per quello che riguarda invece le altre borse, oltre a quella greca, beh, la giornata oggi è sicuramente più calma in tutta Europa, nel senso che Milano è invariata, Parigi pure, Francoforte guadagna lo 0,70, Londra meno 0,40%, perde e anche parecchio Fiat Chrysler Automobiles, meno 6,20, Mediobanca meno 3%, Exor meno 2,5%, Pop Milano meno 1,90, Pop Emilia Romagna meno 1,50, Banco Popolare meno 1,40%, però va bene Telecom Italia più 2,30, UbiBanca più 1,50, UniCredit più 1,1, TOZ più 0,90. L'euro è sotto e ampiamente, quota 1,24 a 1,2386, e con un prezzo del petrolio, devo dire oggi anche della benzina, abbiamo visto la benzina verde andare sotto 1,60 euro, non capitava da 3 anni a questa parte, se non ho visto male. Ebbene, dicevo, da 3 anni esatti, anche il gasolio è tornato ai livelli del 2011. E dicevo, va bene perché il petrolio resta basso, l'euro scende, quindi c'è un vantaggio un marginale, ma c'è per le nostre esportazioni, senza pagare le conseguenze in termini di bolletta energetica e di inflazione importata. Ci manca solo infatti che con i consumi fermi e l'inflazione, quella domestica, in calo perché la gente non spende, ci becchiamo l'inflazione importata per via dell'aumento dei prezzi dell'energia. Così non è, e il combinato disposto va a nostro favore. Per quello che riguarda invece visto che parlavamo di petrolio, è sceso ulteriormente oggi intorno ai $60 al barile, inizia a essere molto vicina alla quota, come già ricordavamo, dei $50 al barile. Dicevo, al di là dell'euro e del petrolio, oggi c'è stato un ennesimo record negativo del rublo, continua a calare fortemente la valuta russa nei confronti sia di euro che di dollaro, a 60, praticamente 69 rubli ci vogliono per comprare un euro, nonostante la banca centrale russa abbia aumentato il tasso di riferimento di un punto percentuale, e ci vogliono 55 rubli e mezzo per comprare un dollaro, e mentre, ripeto, la banca centrale ha portato i tassi di interesse in Russia dal 9,5 al 10,5%, mentre nell'area ex Unione Sovietica oggi l'Ucraina ha fatto sapere di avere bisogno di altri 15 miliardi di dollari di finanziamento da parte del Fondo Monetario Internazionale per evitare il fallimento vero e proprio il prossimo anno. Ancora, di cosa ci occuperemo oggi? Ci occuperemo della legge di stabilità, nel senso che c'è stato un incontro importante tra il Premier Matteo Renzi e il Ministro dell'Economia Padoan. Ci sono stati anche dei nuovi emendamenti da parte della minoranza del PD, dopo che appunto ieri il governo è andato sotto, su questo c'è chi subito si è sperticato in previsioni di elezioni a maggio, vedremo, ne parleremo. C'è una nuova posizione del Presidente della Commissione Europea Juncker, che ieri ha irritato non solo noi, con il suo ditino alzato, stiano attenti i paesi, Francia, Italia, ne pagheranno le conseguenze, e mentre usciva un'altra fase dello scandalo che gli piaccia o no, lo coinvolge direttamente, l'Axleaks, è lo scandalo su come Lussemburgo portava a pagare in Lussemburgo le tasse multinazionali che i profitti li realizzavano altrove, e Juncker è stato presidente del Consiglio per 18 anni. Dicevo, oggi torna sull'Italia e corregge il tiro. L'Italia è un grande paese ed è guidato da politici responsabili, visto che ieri aveva avuto critiche non solo da Padoan ma anche da vari esponenti europarlamentari italiani presenti a Bruxelles. E poi ieri va detto, ricordo, attenzione, se i paesi non fanno quello che diciamo noi, sostanzialmente noi inaspreremo la procedura del deficit e le conseguenze saranno spiacevoli per Italia e Francia. Dicevo, c'è questo tema, c'è anche il tema ovviamente delle borse e dell'andamento dell'euro, ma c'è un tema che riguarda il Made in Italy. Oggi infatti iniziano, in questo mese ci sono molti settori produttivi di questo paese che fanno i bilanci dell'anno, chiaramente li stiamo presentando più che riusciamo. Oggi sarà la volta del mobilio legno arredo, uno dei quattro pilastri, delle quattro gambe del tavolo del Made in Italy, assieme all'automotive, all'abbigliamento e all'alimentare. Questa definizione va riconosciuta a Marco Fortis, all'economista Marco Fortis. Legno arredo, settore fondamentale in questo paese, impiega quasi 600.000 addetti, oltre 600.000 addetti, incluso l'indotto, e un anno ancora difficile con qualche prospettiva di miglioramento per il 2015. Ne parleremo a brevissimo. Adesso però le altre notizie in breve, non prima di aver ricordato il numero per i vostri sms 349-238-6666 e la posta su Focus Economia a Facebook. Che ho detto che la quarta A sarebbe automotive, no, è apparecchiature meccaniche che riguardano anche la componentistica, ci mancherebbe per l'automotive, ma per essere precisi è apparecchiature meccaniche, la meccanica industriale di precisione in cui noi siamo i leader in Europa assieme a Germania. Parleremo anche di un'altra grande notizia che riguarda sempre l'Europa. Oggi la Banca Centrale Europea ha assegnato la seconda tranche di prestiti alle banche, no? TLTRO si chiama in gergo, i prestiti alle banche, a patto che le ridiano, li girino alle imprese o alle famiglie, ma non per i mutui per la casa. Lo abbiamo raccontato molte volte. Allora, la prima volta il mercato restò deluso, le banche avevano chiesto meno del previsto. Oggi la Banca Centrale Europea ha assegnato alle banche europee 130 miliardi di euro. Anche in questo caso le attese, quindi la forchetta, andava dai 90 ai 250 miliardi, quindi la domanda è stata debolina rispetto alle attese. Nella prima asta ricordo che la BCE non andò oltre gli 82 miliardi. Attenzione, non è la BCE che decide, è in base alle domande che arrivano dalle banche dell'area euro, e devono essere domande appunto per cui la banca si impegna a girare questi soldi come prestiti alle imprese, altrimenti poi il tasso agevolato che ottiene la BCE glielo fa pagare caro dopo. Beh, è la domanda che genera in questo caso l'offerta, per cui la prima volta 82 miliardi, adesso 130 miliardi. Le banche italiane ne hanno chieste tra i 26 e i 28 miliardi. Nello specifico, Intesa San Paolo ha chiesto 9 miliardi, Unicredit 2 miliardi e 2, Monte dei Paschi 3 miliardi e 3, Ubibanca 3 miliardi e 2, Banco Popolare 2 miliardi e 7, Cassa di Risparmio di Genova 400 milioni, Veneto Banca quasi 1 miliardo, 980 milioni. Allora, vedo già dei messaggi, due precisazioni. Questi prestiti si chiamano TLTRO, vorrebbe dire targeted, vuol dire che sono prestiti che hanno come unico obiettivo di essere girati alle imprese. La banca non può usarli per aumentare il capitale, ed è questo che li distingue dai prestiti precedenti, gli LTRO, Long Term Refinancing Operations, che quelli si andavano ad aiutare direttamente e sostanzialmente solo le banche che li chiedevano. Questi devono essere, appunto, se non si vuole pagare una penalità, girati alle imprese. tant'è che comunque molti analisti dicono che, visti i deboli, la debole domanda di prestiti, si avvicina l'ipotesi di quelli che hanno studiato, chiamano QI, vorrebbe dire quantitative easing, ossia il fatto che sostanzialmente la banca centrale possa iniziare a acquistare debito dei singoli paesi stampando moneta. Allora, le altre notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda la BCE, sarà approfondimento nella seconda ora del programma. Ancora, la legge di stabilità, oggi è arrivato un giudizio positivo dal presidente di Confindustria Squinzi, che però ha detto dobbiamo vedere la stesura, i testi definitivi di questa legge. Sullo sciopero Squinzi, lo sciopero pubblico impiego, ha detto è uno strumento tradizionale che mi lascia dei dubbi. E poi sul Jobs Act però ha aggiunto, attenzione, è già da un po' che lo diciamo, l'Italia è ferma e ha bisogno di ripartire. Il Jobs Act va nella giusta direzione, ma da solo non basterà e non basta per far ripartire il paese. Intanto la produzione industriale ha frenato anche ad ottobre, rispetto all'anno prima siamo a meno 3%, il centro studio Confindustria si attende invece a novembre un incremento rispetto al mese precedente. E visto che siamo alle notizie economico-finanziarie italiane, faccio notare che oggi, secondo quanto citano molte fonti, sarebbero già pronte le misure per l'ILVA, quelle messe a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si starebbe ragionando se inserire l'intero pacchetto di misure nella legge di stabilità oppure utilizzare un veicolo ad hoc, che poi vuol dire un decreto legge, che potrebbe essere varato già domani, quando c'è il Consiglio dei Ministri, quello che dovrebbe annunciare anche il giro di vite su patteggiamenti, sulle misure per contrastare illegalità e corruzione. Notizia che vi hanno già raccontato i nostri GR: Google va via dalla Spagna, va via Google News, non Google, chiaramente. Perché? Perché la legge spagnola, la nuova legge spagnola sulla proprietà intellettuale, che entrerà in vigore il 1 gennaio, costringerebbe il colosso a pagare le aziende editoriali per l'utilizzo dei contenuti da queste prodotte. Ora, a me mi dispiace che vada via Google News, ma non ho capito qual è il problema, nel senso che se c'è una proprietà intellettuale, ma non lo dico perché riguardi la categoria a cui appartengo, ma dico semplicemente, tu utilizzi dei testi prodotti da altri gruppi editoriali che pagano i loro giornalisti per produrre quei testi, che investono, ma vorrai riconoscere qualcosa oppure no? Perché allora, c'è stata una battaglia durissima sui diritti musicali, di proprietà, no? Qualcuno si ricorda la vicenda Napster? Ormai è passato qualche anno. Allora, i diritti intellettuali, paga qualcosa, devi pagare. Se prendi un contenuto, o te lo danno gratis, ma perché ti autorizzano, o se no paga, è troppo comodo. Se no, fare Google News usando i giornalisti delle testate spagnole, tanto che sono a carico dei vari quotidiani o televisioni o reti spagnole, per cui Google non li paga, usa le notizie, poi magari le tasse sappiamo che non le paga neanche tutte nel paese in cui genera il fatturato e l'utile, per cui che reazione old da chi fa parte della new economy, eh? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Oggi il commento è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, ed è su un tema che a noi sta molto a cuore e ci fa anche molto arrabbiare: il rapporto Italia-Germania. Già ieri ricordavamo che oggi c'è questo primo incontro, poi domani si è Presidente della Repubblica Federale Tedesca e Presidente della Repubblica Italiana, domani si entra in vivo a Torino, bilaterale italo-tedesca. E appunto ai nostri rapporti con la Germania è dedicato l'editoriale di Alberto Rioli. Scopri le automatiche Saeco con macine in ceramica per offrirti in ogni momento il tuo espresso autentico. Saeco regala Pellini. Regolamento su philips.it/promozioni. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Oggi Torino ospita un importante vertice sul dialogo italo-tedesco, cui partecipano i due presidenti Giorgio Napolitano e Joachim Gauck. È l'occasione per fare il punto su un rapporto storicamente molto stretto, ma ultimamente molto difficile. L'economia racconta meglio di altro quali sono in realtà i veri rapporti fra i due paesi. Esportiamo in quell'area merci per 54 miliardi e ne importiamo per 49. Italia e Germania poi sono il cuore manifatturiero dell'Europa e la Germania del Sud e l'Italia del Nord spesso si comportano come una sola regione produttiva, dato che le imprese della Lombardia, dell'Emilia o del Veneto forniscono componenti importanti, tecnologia e automazione sofisticata alle aziende tedesche che altrimenti non funzionerebbero. Insomma, vite parallele, intrecciate. Un altro dato può aiutare a capire. In Italia sono quasi 2.000 le imprese tedesche che operano nel nostro paese e in Germania sono più o meno 1.800 quelle partecipate dai capitali italiani. In entrambi i casi coinvolgono circa 150.000 occupati. Per questo risulta ancor più incomprensibile la divaricazione politica di quest'ultima stagione, soprattutto sul ruolo dell'Europa e sul ruolo della Banca Centrale Europea. Il retropensiero tedesco è che l'allentamento del rigore sui conti e gli interventi sulla liquidità promessi da Mario Draghi potrebbero allontanare i paesi dal percorso virtuoso delle riforme strutturali. Noi in realtà rischiamo di vedere la Germania come un paese preoccupato di lucrare vantaggi sulle difficoltà dei propri partner. Più che pensieri, in realtà sono pregiudizi, ma non è più tempo di primi e ultimi della classe. L'Europa, vista anche la turbolenza di queste ore sui mercati, è una e una sola. Il futuro è il vero bene comune e in questa fase tornare a crescere e investire è una priorità italiana, ma è anche una priorità tedesca. È soprattutto una vera priorità europea. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. Questi 100 secondi di Alberto Orioli sul rapporto italo-tedesco. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie a tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri di buon compleanno, non so come facciate a saperlo, ma bravi. Però adesso parliamo di un settore che sta lentamente e faticosamente rialzando la testa, anche se il bilancio del 2014 è un bilancio ancora negativo. È uno dei principali settori della nostra industria, come lo ricordavo in precedenza, è il settore del legno arredo e rientra questo nel viaggio che stiamo facendo ormai da settimane, da mesi, in tutti i vari settori produttivi per capire anche qualche, e vedere, trovare qualche spiraglio. Non sempre ci riusciamo, sarebbe sbagliato edulcorare la pillola e dire ma no, tutto va bene. Però delle volte buone notizie ci sono. Nelle scorse settimane ci siamo occupati e mesi dell'edilizia, della nautica, della tiro caseario, della ceramica, del tessile d'abbigliamento e della meccanica. Continuiamo il nostro viaggio nei settori produttivi. Oggi ci occupiamo di uno dei settori cruciali del Made in Italy e mi riferisco al cosiddetto settore del dell'arredo e Federlegno arredo. Perché dico cruciali? Perché il settore che è uno delle famose 4A di Marco Fortis, per chi se le ricorda, le 4A cruciali del Made in Italy italiano, no? Automazione, legno arredo, appunto, e poi c'era l'abbigliamento e l'alimentare. E dicevo, il settore del legno arredo, che significa anche e soprattutto il mobilio italiano, il design italiano, ma non solo, ha un fatturato di quasi 27 miliardi di euro l'anno, con delle esportazioni che sono arrivate praticamente al 50%, 13 miliardi di euro, 66.000 imprese del settore con circa 360.000 addetti. Se però si guarda l'indotto che genera il settore del mobilio, legno, arredo, si arriva a 650.000 addetti. Certo, rispetto al 2007 il settore è di quelli pesantemente bastonati della crisi, non come l'edilizia, ma insomma non può sempre essere l'unico benchmark l'edilizia. Ha perso una produzione, ha perso circa il 30% del valore della produzione, quindi è come se fosse scomparso, lo diciamo sempre come esempio per far capire, un capannone su tre o una fabbrica su tre di quelle che lavoravano nel settore del mobilio, legno e arredo. I motivi si chiamano anche in questo caso mercato interno e debolezza, se non crollo, dei consumi. Oggi ha presentato Federlegno Arredo i dati sul 2014 e le previsioni per il prossimo anno. Allora ringrazio per essere il nostro ospite oggi il presidente Roberto Snaidero. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Dunque, 2014 meno 2,7%. E il dato, insomma, è un ulteriore anno di calo in quello che riguarda l'andamento del settore del fatturato, con 26,7 miliardi, quasi 27. Lì, per capire, per essere molto chiari, ha pesato ancora una volta il calo dei consumi interni? Esattamente, se noi analizziamo un po' i dati del 2014, vediamo che abbiamo un calo sul consumo del mercato interno, mentre siamo in crescita per quanto riguarda le esportazioni. Ma io vorrei aggiungere ancora qualcosa. Prego. Il 2014 abbiamo un po' bloccato questa perdita, mentre gli altri anni avevamo 5, 6, 7% mercato interno, parlo sempre, quest'anno siamo un qualcosa di meno, siamo meno 4,2% rispetto al 5, 6, 7 degli altri anni. Questo secondo me è un fatto positivo, se nel negativo. E adesso arriveremo anche a che cosa ha contribuito, quindi meno 4% i consumi interni, lei ricorda giustamente che negli anni prima si è arrivati a un meno 7%, perché quando la crisi morde tu inizi a tagliare le cose non necessarie in senso stretto, e l'arredamento, ahimè, rientra tra queste, così come anche tutto il crollo, calo pesante del settore immobiliare ha coinvolto anche voi, perché è inutile girarci attorno, ma quando il settore immobiliare va comporta anche una ricaduta per voi. Bene è andato l'export quest'anno, più 3% quasi, nonostante la Russia ha pesato su di voi. Sì, era il quinto mercato di esportazione nel 2013, purtroppo per motivi politici indipendenti dalla nostra volontà abbiamo perso circa un 8-9% di fatturato, perderemo a fine anno circa 7-8% di fatturato. Questo, e ciò nonostante siete riusciti a fare un più 3%, esatto. Questo per quello che riguarda il 2014, è un anno in cui, e qui iniziamo con altre note dolenti, il vostro settore comunque ha perso 1600 imprese e 3800 occupati, chiaramente in parte. Non si può dividere 3.800 per 1.600 in maniera così automatica, però sono il 2,4% in meno di aziende e l'1% in meno di dipendenti. Questo nonostante il bonus mobili. Allora, il bonus mobili fu lanciato da voi 2 anni fa come proposta e adottato come provvedimento dal governo 6 mesi dopo, se non ricordo male. Il giugno 2013. Esatto. E quindi l'avete avuto in tutto il 2014. Sì. Leggendo questi dati sembrerebbe che il bonus mobili non sia servito. In realtà uno potrebbe anche dire che le cose sarebbero andate molto peggio senza il bonus mobili. Sì, dai nostri calcoli il bonus mobili ci ha permesso di recuperare circa 1.900.000 da settembre del 2013 al fine del dicembre 2014, recuperare circa 1.900.000.000 di fatturato. Ma quello che è ancora molto più importante, abbiamo salvaguardato 10.000 posti di lavoro e 3.600 aziende che non hanno chiuso, questo bisogna tenere conto. Ma oltre a questo il bonus mobili ha portato 360 milioni di IVA aggiuntiva per lo Stato, alle casse dello Stato, quindi secondo me la misura del bonus mobili è una misura positiva. Perché chiaramente non chiudendo e non diminuendo i fatturati, il gettito IVA è stato, secondo i vostri calcoli, superiore di 360 milioni rispetto a quanto non sarebbe stato senza il bonus mobili. E tra l'altro il governo ha confermato, oggi vi ha scritto anche Renzi nel corso della vostra presentazione, il governo ha confermato il bonus mobili anche nel 2015. È stato prorogato fino al 31/12/2015. Ma vorrei aggiungere qualcosa, quando parliamo di IVA 360 milioni, IVA aggiuntiva, c'è un aspetto da non sottovalutare, da non dimenticare, anche l'eventuale cassa integrazione, sono i migliori costi che per lo Stato hanno inciso su questa misura del bonus mobili. Veniamo adesso al fermo restando che il 2014 è stato un anno ancora difficile, non così drammatico come quelli precedenti, grazie anche al bonus mobili e alla vostra capacità di stare sui mercati esteri nonostante l'embargo russo, il dato è emblematico, più 3%. Che che ha in parte assorbito il calo sul mercato interno, ormai siete, ripeto, al 50% di export sul fatturato quasi. Le previsioni sul 2015? Ma la previsione sul 2015, vediamo che dovremmo portare una crescita del nostro fatturato globale a 1,5% in più, con una crescita delle esportazioni, un'ulteriore crescita del 5% sui mercati esteri, mentre sul mercato interno una minor perdita, se vogliamo, meno 0,9%. Questi sono i nostri dati e credo che fino ad oggi abbiamo sempre puntualmente avuto riscontro dei dati dal nostro ufficio studi, che sarà così anche per il prossimo anno. Allora, adesso abbiamo il meteo e la pubblicità, poi torniamo su questi dati, dove, da quello che ho capito, insomma, questa volta nel 2015 una riduzione del calo nei consumi interni e un aumento dell'export riusciranno a controbilanciarsi praticamente, con un effetto anche positivo, ma ne parliamo dopo il meteo. ...17.39 minuti, riprende Focus Economia. Allora, nel frattempo, nella pausa, il governo è di nuovo andato sotto, non è una bella notizia, comunque avremo l'approfondimento su quanto accaduto ieri, a questo punto anche quanto accaduto oggi. È andato sotto su un emendamento presentato di nuovo da un deputato della minoranza del PD, Lauricella, secondo il quale il futuro Senato dei 100 sarà composto esclusivamente da rappresentanti territoriali senza senatori a vita di nomina presidenziale. 22 voti favorevoli, 20 contrari, nonostante il parere negativo del governo. E insomma, sono messaggi. Poi vediamo cosa capiterà, visto che mi sembrano messaggi sulla legge elettorale, ma vediamo che non creano intoppi anche sulla legge di stabilità. Comunque, dicevamo col presidente di Federlegno Arredo Snyder, prossimo anno una crescita complessiva del settore, ripeto, meno 30% dalla quando è iniziata la crisi, un più 1,5% come buon effetto di un export che cresce ancora di più e di un consumo interno che cala un bel po' di meno. Dov'è che state soffrendo di più in questo momento? Ma stiamo soffrendo di più naturalmente sulla Russia, che abbiamo perso, se come dicevo prima, 7-8%. Io non so come andremo dal punto di vista di mercato per il 2015. Certo è però che abbiamo dei mercati che sono in forte crescita. Faccio l'esempio del mercato cinese, che sono nell'ordine del 25% di crescita, il mercato degli Stati Uniti più 9%, il mercato, anche parte del mercato europeo, andremo sul 6-7% di crescita. Quindi le nostre previsioni sono molto, e stiamo investendo molto su altri mercati, tipo il mercato giapponese, il mercato indiano, dove sono dei mercati che prima non avevamo mai esplorato. Oggi abbiamo le carte in regola per poter entrare e avere dei successi. E a livello di prodotto invece, dove ci sono i maggiori successi e soddisfazioni, dove invece le maggiori sofferenze? Sulle tipologie, diciamo. Direi che purtroppo riscontriamo una concorrenza da parte di alcuni paesi su alcuni prodotti, tipo i divani, tipo le sedute, dove ci copiano i nostri prodotti, poi fanno arrivare sul mercato europeo dei prodotti che senza le caratteristiche, i parametri, le certificazioni che hanno le nostre aziende. Ecco, su questo, sul Made In, che è un vostro vecchio cavallo di battaglia, non mi sembra abbiate ottenuto molto, o no? Sbaglio? Ma il Consiglio d'Europa purtroppo ha procrastinato la decisione sul Made In al prossimo anno, quindi noi siamo ancora lì in attesa di vedere come andrà a finire. Ma d'altra parte io ho già dichiarato che comunque noi come federazione continueremo a batterci per avere il Made In e il riconoscimento del prodotto. Per l'Europa, per i paesi europei, non solamente per l'Italia. Un'ultima cosa, Snyder, ai suoi associati, che cosa, perché un po' di autocritica la chiediamo sempre, no? Che cosa consiglia? Cioè, quello che voi vedete a livello di dati, per esempio sull'export, ma in molti settori noi per esempio osserviamo che le imprese che hanno saputo investire non solo in macchinari e prodotto, ma anche in rete commerciale, e quindi significa investimenti che magari non rientrano nel bilancio in maniera così, così evidente, non trasparente, ma o i famosi intangible assets, investimenti nella qualità, nella formazione delle persone che prepari. Non li metti a bilancio come un investimento in macchinari, ma delle volte fanno la differenza sui mercati, soprattutto quando sono distanti: Cina, le citava, India, Russia e Giappone. Ecco, noi notiamo che in molti settori quello che manca alle imprese è la capacità di avere la forza di andare su questi mercati con gli investimenti che sono necessari, perché poi significa anche fare le fiere, sviluppare rapporti commerciali e quant'altro. Allora, se lei dovesse dare un consiglio ai suoi associati, a quelli che sono in maggiore difficoltà, quale, anche brutalmente, perché non si può sempre lisciare il pelo, ma quale consiglio darebbe? Ma il consiglio l'ho già dato e abbiamo già messo in pratica quello che faccio, l'esempio proprio concreto. Per quanto riguarda la Cina, che è un mercato completamente diverso da tutti gli altri mercati, ho voluto creare all'interno della federazione il Club Made in Italy, dove partecipano le imprese che vogliono affrontare il mercato cinese in maniera professionale, non buttare via dei soldi, buttare via. Questo è uno dei primi esempi. Secondo esempio, lei tenga conto che le nostre sono medie e piccole imprese. Certo. Quindi le reti di imprese, se ne parla tanto, il primo l'abbiamo già fatto proprio un paio di mesi fa nell'Africa subsahariana. 8 aziende del mio settore sono messe assieme, ognuno con il proprio prodotto specifico, per presentarsi in maniera comune al buyer locale. Queste sono delle concrete misure che gli associati di Federlegnare possono sfruttare ed avere a disposizione con l'aiuto della federazione. Questo voglio essere molto chiaro. Cosa manca ancora? Cosa manca? Manca. E credo che il governo abbia. Non manca le imprese, il governo sappiamo. No, è facile andare sul governo. Cosa manca al governo? Possiamo fare alle imprese cosa manca? Manca alle sue imprese, alle imprese vostre associate. Diciamo. Alla mia impresa manca, diciamo, questa forza di coesione per andare su mercati, come diceva lei giustamente prima, a certi mercati lontani, grossi mercati, grandi mercati, dove le piccole aziende da sole non lo possono affrontare. Ecco, io dico, invito le mie imprese associate a mettersi assieme, a lavorare con la federazione, perché l'abbiamo dimostrato coi fatti, non è che raccontiamo, mettiamo fumo negli occhi, coi fatti dimostriamo che siamo concreti e si può vincere. Allora, grazie al presidente di Federlegno Arredo Roberto Snyder, e soprattutto in bocca al lupo ai dipendenti di tutto il settore, quindi 650.000 persone e famiglie, se consideriamo anche l'indotto. Grazie a voi. Allora, la borsa intanto ha chiuso invariata, più 1,16 invece l'America in questo momento, invariata anche Parigi, più 0,60% Francoforte, meno 0,40 Londra, male Fiat nel finale, meno 6,27%, Mediobanca meno 3, Exor meno 2,5, Pop Milano meno 2,20, Pop Emilia Romagna meno 1,60, Ferragamo meno 1,5, come Prismian l'1,40 lo perde il Banco Popolare. Telecom Italia più 2%, invece UbiBanca più 1,40, Unicredit più 1, Tod's più 0,90 come Tenaris. E a chi pensa che qui siamo al Cocorico in discoteca non ha ancora capito che basi abbiamo preparato per il resto del programma. E allora intanto il traffico. Accontentati, 17:48 minuti, allora la borsa, Eleonora Micheli come sempre con Radio Corri sulle 24 ore, gli indici li ho già dati io, l'euro è risalito invece un po' sopra quota 1,23, 1,24,02. Giornata priva di grandissimi spunti, ma per non farsi mancare nulla, oggi Atene ha perso quasi un altro 8% e quindi un altro crollo in borsa. E poi commenteremo più avanti invece questa seconda tranche, come ricordavamo, di prestiti che la Banca Centrale Europea dà alle banche se li girano le imprese, un'altra asta un po' deludente, bassa la domanda nella parte più modesta della forchetta, delle ipotesi. Allora, Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Dunque, Onora, oggi dicevo non tantissimi spunti, però partiamo da Fiat Chrysler, perché meno 6,30% iniziano ad essere un po' tanti i cali a questo punto di Fiat. Sì, anche ieri infatti i titoli erano andati male, oggi hanno chiuso meno 6, in verità durante la seduta perdevano oltre il 7%, in verità si sono allineati al prezzo di $11, che è circa 9 euro, a cui sono collocate le azioni, le 87 milioni di azioni a Wall Street. In più nella notte, oltre a fissare il prezzo delle azioni che verranno appunto collocate a Wall Street, sono state annunciate le condizioni del prestito convertendo da 2,5 miliardi, che appunto prevede una cedola del 7,875% annuo che verrà pagata nel 2015 e nel 2016. Comunque gli switch sulle condizioni che sono state annunciate hanno provocato questo scivolone. E in effetti appunto 87 milioni di azioni ordinarie a $11 per azione. Ancora sul fronte dei titoli, Mediobanca oggi meno 2,92%, lo dicevamo, un po' contrastate tutte le banche, Milano meno 2,20, Emilia Romagna meno 1,60, Banco Popolare meno 1,40%, Exor, la controllata di Fiat, perde il 2,5%. Fronte opposto invece Telecom Italia più 2. Sì, Telecom Italia era arrivata a salire anche di oltre il 3% sull'indiscrezione secondo la quale un'accordata di aziende brasiliane, aziende delle TLC, vorrebbe comprare la controllata di Telecom Italia, Tim Participa Soe, la controllata brasiliana, e sarebbe già pronta a mettere sul piatto circa 15 miliardi di euro per l'intera società, quindi in pratica 15 miliardi di dollari, scusate. In pratica la Telecom Italia, che detiene il 67%, andrebbe circa 8 miliardi di dollari. Ora bisognerà vedere innanzitutto se è vera questa indiscrezione, perché la stessa Team Participa Soe ha detto di non saperne niente, e se in quel caso accetterà l'offerta. Comunque sul fatto che possa avvenire qualcosa i titoli sono saliti del 2%. Eh sì, devo dire che obiettivamente della vicenda Telecom, della Telecom commedia, come abbiamo chiamata noi, della Telecom novella per essere più precisi, è difficile seguirla. Comunque tu hai chiarito molto bene le smentite sulle voci e comunque l'opzione ancora aperta. Mediaset ha fatto una buona settimana, Mediaset più 0,40% anche oggi, sempre i dati sulla pubblicità? Mediaset ha fatto molto bene, a novembre ricordiamo che ha registrato un progresso del 7% della raccolta pubblicitaria, il primo mese positivo e più che positivo, ha fatto meglio anche delle TV ad esempio di Cairo, la 7 e la 7D, che ha registrato una raccolta pubblicitaria positiva ma di poco più del 2%, e quindi ovviamente gli investitori hanno premiato questa netta inversione di tendenza. Poi titoli apparentemente minori, G-Tech da un lato, Snam dall'altro, e se vogliamo chiudere anche sulla Roma Calcio dopo che è stata eliminata dalla Champions. Sì, la Roma Calcio appunto sono dolori anche in borsa, perché alla fine è andata male, ha perso oltre il 4%, invece per quanto riguarda titoli a maggiore capitalizzazione, G-Tech alla fine ha un po' rallentato nel corso della giornata, era invece tra i migliori titoli. In verità la società ha dichiarato di aver chiuso anticipatamente un contratto in Illinois, era un contratto poco redditizio, e quindi il mercato ha premiato questa mossa sperando che probabilmente l'azienda poi si concentrerà su contratti più ricchi, più sostanziosi. Per quanto riguarda Snam invece i titoli sono saliti dello 0,7%, ieri l'assemblea dei soci ha dato il via libera all'aumento di capitale da 505 milioni che è finalizzato all'acquisto del gasdotto austriaco TAG, acquisto che dovrebbe migliorare i conti dell'azienda e soprattutto anche la redditività. Ecco, dicevamo delle banche, le ho citate in maniera un po' sommaria, altre si sono mosse molto molto meno o altre in terreno positivo. Monte dei Paschi per esempio guadagna lo 0,50, Intesa pure, Generali, quindi assicurazioni più 0,47%, Unipolsai e più 0,70, Unicredit più 1% e Ubibanca più 1,42%. Oggi diciamo il mondo bancario non ha avuto una direzione univoca, sostanzialmente ognuno è andato per i casi suoi, no? Sì, le popolari hanno sofferto di più, le altre banche invece hanno rialzato la testa, poi semmai sempre i riflettori accesi su MPS più 0,5%, ma quest'oggi il Corriere della Sera ha indicato che proprio questa sera la Banca Centrale Europea potrebbe analizzare l'aumento di capitale che Banca MPS si appresta a lanciare nel 2015. Eh sì, e poi le banche, volete sapere, adesso ne parleremo tra brevissimo, comunque le banche italiane che hanno chiesto soldi oggi, che hanno chiesto alla Banca Centrale Europea di ottenere i prestiti da girare poi alle imprese, sono Intesa San Paolo quasi 9 miliardi, Unicredit 2 miliardi e 2, Monte dei Paschi 3 miliardi e 3, Ubibanca 3 miliardi e 2, Banco Popolare 2 miliardi e 7, Cassa di Risparmio di Genova 400 milioni, Veneto Banca 980 milioni. Ripeto a chi non sta scrivendo, sono soldi che le banche possono solo girare alle imprese, non stiamo parlando degli LTRO ma dei TLTRO, al di là del gioco di parole la BCE dà questi soldi se tu li giri alle imprese, se non lo fai ti ritieni diciamo in banca, poi paghi delle penali altissime quando devi ridarli. Grazie intanto a Eleonora Micheli, Radio Colli sulle 24 ore. Buonasera. E ci avviciniamo al GR24 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo dopo delle tensioni. Abbiamo appena raccontato un'altra volta: il governo va sotto, ed è successo appunto anche ieri. Tensioni nella maggioranza e anche modesta accoglienza per la seconda tranche di soldi che Mario Draghi ha messo a disposizione delle banche europee. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per adesso commentare quello che è successo ieri al Senato, le tensioni, l'incontro oggi Ministro Padoan con il Presidente del Consiglio Renzi e anche l'accoglienza di nuovo tiepida delle banche alla seconda tranche di aiuti non alle banche ma alle imprese che ha offerto oggi la Banca Centrale Europea. Allora, partiamo dalla situazione politica italiana. Abbiamo al Senato la minoranza del PD, la minoranza Dem, che ritenta di modificare la platea del bonus bebè legandolo all'ISEE. Ieri 22 favorevoli, 20 contrari per l'emendamento sui senatori a vita, quindi non è passata, o meglio, è passato l'emendamento nonostante il parere negativo del governo. Anche qui presentato dalla minoranza PD, in modo, secondo questo emendamento il futuro Senato dei 100 sarà composto esclusivamente da rappresentanti territoriali senza senatori a vita di nomina presidenziale. Ora non è che questo cambi i destini del paese, però la tenuta del governo, questo sì, anche perché tutti guardiamo alla Grecia e allo spettro elezioni anticipate in Grecia. Oggi molti giornali titolavano: inizia a intravedersi un rischio di elezioni anticipate a maggio. Allora, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Come si tengono assieme la vicenda di ieri dell'emendamento al Senato con la richiesta di oggi della minoranza della minoranza del PD modificare la platea del bonus legandola all'ISE sulla legge di stabilità? Ora, sono tutte piccole cose, non voglio ingigantirle, però avvengono in un momento in cui anche oggi la Grecia ha perso quasi l'8% sulla borsa per via di un unico spauracchio, cioè le elezioni anticipate vinte dalla sinistra estrema greca, e soprattutto il fatto che la Grecia possa non aderire a quanto richiesto dalla Troica. Al di là di quello che noi pensiamo sulla Troica, su quello che dovrebbe fare la Troica, cioè dare tempo alla Grecia di respirare, a Samaras di respirare e cercare di non perdere le elezioni, se no è peggio è peggio il taccon del buso, è peggio la toppa del buco. Vorrei capire, sono scricchioli o così, schermaglie che poi vengono, lasciano il tempo che trovano? Prego. Sono l'una e l'altra cosa, cioè al quadro che tu hai fatto aggiungerei come diciamo notizia del giorno anche questo duro scontro tra il sottosegretario Del Rio e Massimo D'Alema, con una nota addirittura di D'Alema, l'uno a dire, cioè Del Rio che chiede alla minoranza del PD dite chiaramente se volete le elezioni, e D'Alema che dice non è questa la questione, voi lasciate liberi i parlamentari. Questo è diciamo lo sfondo di un braccio di ferro che sta andando avanti. Direi che più siamo passati adesso dalla fase del braccio di ferro forse a quello di una certa resa dei conti, perché i segnali che ci sono stati sia con l'affossamento che hai ricordato tu, quello dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, uno, e i segnali di oggi che arrivano sul fronte della legge di stabilità sono in sé piccole cose, ma tutte e due sommate in un quadro politico molto fluido e molto in tensione, danno l'idea appunto di uno scontro interno molto forte all'interno del PD e quindi probabilmente all'inizio di una fase di una resa dei conti che si collega, secondo me, a mio giudizio, alla prima e vera scadenza che è sicuramente in calendario, perché tutto il resto parliamo di ci saranno, non ci saranno, vediamo, forse ci saranno elezioni politiche, ma sono le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, che sappiamo per certo che avverranno tra breve. Questo diciamo segnano, ciascuno segna il suo terreno, pianta una bandiera e quindi attrezziamoci a settimane diciamo tutte di questo tipo. Ecco, ti leggo assieme a te due flash d'agenzia su Renzi, che è appunto in visita ufficiale in Turchia, e da Ankara ha detto il voto anticipato per quello che mi riguarda la legislatura finisce a febbraio del 2018, beh non è che potesse annunciare il voto anticipato dalla Turchia, e invece su quello che è successo ieri al Senato ha detto le riforme stanno marciando, ci sono talvolta degli incidenti di percorso, su un emendamento in commissione il governo è stato battuto, recupereremo in aula perché non è possibile fare soluzioni pasticciate, che vuol dire quando andremo col testo in aula questo debacle, questo intoppo verrà superato. Vuol dire che però hai un'aula che controlli, Guido. Sì, cioè, dire, lui, non è che è andato sotto perché qualcuno sarà distratto e era in bagno, cioè l'emendamento era del PD. Diciamo, i rapporti di forza sono chiari, se c'è stato questo è un incidente certamente, ma ha un valore segnaletico politico molto, molto forte. Ora vediamo se in aula diciamo, non si ripete, perché sappiamo poi che in particolare al Senato i numeri non sono così forti per Renzi, e quindi lui sa che deve passare comunque dei passaggi difficili da questo punto di vista, in più in un quadro che è quello che ricordavi tu prima, cioè con le tensioni che ci sono che arrivano sul fronte europeo, dalla Grecia, i dati dell'economia italiana che in questa fase non aiutano Renzi. Faccio notare che proprio nella dichiarazione oggi di D'Alema, polemica con Del Rio, si fa riferimento proprio al continuare di questi dati negativi, quindi dicono il Presidente del Consiglio pensa alle condizioni del Paese e non faccia polemiche su questo. Quindi insomma Renzi certamente fissa il suo obiettivo al 2018 perché così deve fare, ma è evidente che qui ogni giorno che passa possono crearsi le condizioni per andare al voto. Eh sì, questo sarebbe, lo dico, non va al voto, ci mancherebbe, però in questo momento significherebbe poi andare al voto sotto, non dico il giogo, ma sotto anche l'esame di Bruxelles, perché a marzo dobbiamo vedere se Bruxelles è d'accordo sulle nostre correzioni e aggiustamenti sulla legge di stabilità finanziaria, e vedremo se con una Grecia che ha appena votato rischia di accavallarsi tutto questo. Mi chiedono gli ascoltatori, e sullo sfondo, scusami, la rielezione del Presidente della Repubblica, la elezione, lapsus freudiano, la elezione del Presidente della Repubblica? Sullo sfondo questa è la partita più importante che noi abbiamo di fronte, se consideriamo che la scadenza europea più o meno ci hanno dato tempo fine a marzo e quindi ci sarà tempo di negoziare la posizione italiana da qui a marzo, nella speranza che i dati dell'economia siano migliori. E la prima vera scadenza con cui la politica italiana si andrà a misurare in tutti i sensi, compresi i voti, è quella dell'elezione del Presidente della Repubblica, che ovviamente daranno l'esatto profilo di quello che sarà il periodo successivo, perché con quale maggioranza si eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica e darà il profilo se Renzi ha vinto o perso la partita da questo punto di vista. E staremo a vedere. Intanto, nel frattempo, molti ascoltatori mi dicono: guardi che i soldi la Banca Centrale Europea li dà, sono per le imprese, non per le banche. Okay, ditela come volete, sono per le imprese, sono le banche che devono girarli però alle imprese. Chi li richiede, però, abbiate pazienza, non sono le imprese, ma sono le banche dell'area euro. Oggi, seconda tranche, un po' di delusione perché le richieste sono ancora basse, nella parte più bassa della forchetta. C'è già qualche analista che dice: beh, a questo punto si avvicina l'ipotesi che Draghi compri debito dei singoli paesi attraverso il QE e quindi vada a stampare moneta per acquistare titoli dei vari paesi. Dopo il traffico, intanto grazie a Guido Gentili. Allora, cosa è successo oggi? La Banca Centrale Europea ha messo a disposizione un soldi. Si immaginava che le richieste sarebbero comunque avrebbero oscillato tra i 90 e i 250 miliardi. Le banche europee hanno chiesto 130 miliardi di euro di prestiti alla BCE a patto che li girino alle imprese. Il sistema bancario italiano ha presentato richieste tra i 26 e i 28 miliardi. E ricordo ancora una volta i vari prestiti chiesti: Intesa San Paolo 8 miliardi e 9, Unicredit 2 miliardi e 2, Monte dei Paschi 3 miliardi e 3, Ubibanca 3 miliardi e 2, Banco Popolare 2 miliardi e 7, Cassa dei risparmi di Genova 400 milioni, Veneto Banca 980 milioni. Tutti sono abbastanza concordi nel dire che anche questa volta le richieste sono state deboli. Già la prima tranche ottenne solo richieste per 82 miliardi di euro e tra l'altro molti analisti si spingono a dire: attenzione, questo potrebbe aprire la strada all'ultima cartuccia rimasta a Mario Draghi, il quantitative easing. Chiedo al professor Marco Nado, che insegna economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano ed è editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore, innanzitutto. Buonasera a voi. Grazie. Chiedo se lei è d'accordo con questa ultima ipotesi, cioè se le banche non chiedono soldi per girargli le imprese, o perché non hanno voglia, o perché le imprese non chiedono soldi di qualità, ma solo per pagare i fornitori gli stipendi, o perché ritengono più sicuro e conveniente mettere questi soldi in altre forme di investimento, si avvicina all'ultima cartuccia per Mario Draghi? Sì, si avvicina all'ultima cartuccia, ma credo che il primo problema in questo momento sia quello di credibilità di Mario Draghi e di BCE, di BCE e di Mario Draghi in particolare. Perché Draghi ha detto che si è impegnato a riportare il bilancio della BCE al livello dell'agosto 2012, che vuol dire mille miliardi di euro in più rispetto a quelli attuali. E quindi se cominciamo con 150, per arrivare a 1000 è lunga. Che nei momenti nella prima reazione si diceva che sarebbero stati almeno 400 miliardi, cioè un po' meno della metà del totale. Ecco, ma lei che idea si è fatto? Perché le banche, non solo italiane, di tutta l'area euro, hanno chiesto così pochi soldi da girare le imprese? Ma io credo che sia un effetto della fase di recessione che stiamo vivendo. In questo momento probabilmente non c'è una domanda di credito sufficientemente ampia per alimentare tutti questi. Questo è il problema. E questo significa che dal punto di vista della politica monetaria occorre probabilmente qualche arma in più, e quindi il quantitative easing o qualsiasi versione si possa immaginare. E inoltre delle misure di sostegno della domanda, che siano gli investimenti pubblici. Cioè, se ho ben capito, professor Onado, le dice, siccome le imprese stanno producendo in molti paesi, non in Germania, ma insomma sicuramente in Francia, Italia e anche Spagna, sono sotto i livelli produttivi, non stanno marciando a pieno regime, chiedono o non chiedono soldi, o chiedono soldi per non di buona qualità, le banche non hanno quindi tutta questa domanda e chiedono meno soldi a loro volta alla Banca Centrale Europea, ho capito bene? Sì, esattamente, e del resto le ricerche della Banca d'Italia e di altri nel 2012-2011 ci dicevano che anche imprese meritevoli di credito non lo ottenevano. Oggi le ricerche e i sondaggi della BCE ci dicono che ormai il fenomeno è più di domanda che di offerta, cioè determinato dalla scarsa richiesta di prestito alle imprese, che non dalle banche che chiudono i cordoni della borsa. Insomma. Sì, io vedo molti messaggi, poi vanno tutti verificati, ci mancherebbe. Imprenditori, immagino, che invece dicono le banche non ci vogliono concedere i prestiti. Allora, attenzione, chiariamo anche i punti. È sbagliato che una banca conceda un prestito a un'impresa che poi diventa un incaglio, cioè che difficilmente viene restituito, perché la banca gestisce i soldi nostri, quindi i prestiti vanno fatti ricordando la sana e prudente gestione, perché sennò la banca non è una onlus, non è un organismo di beneficenza che può dare soldi a te perché l'attività è in difficoltà e devi pagare i fornitori, sei in ritardo, sei oltre i 60-90 giorni. Però mi lascia... Prego, Nado. Io parlo sui dati, vuol dire non posso parlare di singole situazioni, ma i dati ci dicono che le imprese italiane sono enormemente sottocapitalizzate, e cioè hanno già fin troppo credito. Dal punto di vista bancario, sì, qui molti ascoltatori mi fanno notare che probabilmente se manca la leva, cioè qui Draghi sta offrendo i soldi, solo che i soldi tu li prendi buoni se hai degli investimenti da fare nel medio e lungo termine, cattivi se devi solo sostanzialmente coprire qualche buco. Allora il problema degli investimenti, dei soldi buoni, è che manca la domanda in Europa, professor Onado, perché non è che le imprese sul fronte estero, parlo dell'Italia, stanno facendo già dei miracoli, potranno fare di più, certo che c'è chi richiederà per investimenti produttivi o di rete commerciale all'estero, ma il vero problema è che manca il consumo interno, Nado. Esattamente, ma voglio dire, se non cresce la domanda, se non cresce la produzione, non cresce neanche il fabbisogno finanziario, e quindi il credito che c'è basta. Però allora vorrei difendere, pensate un po' alla posizione tedesca, ma se non funziona questa misura... insomma, è molto difficile, però se non funziona questa misura, chi ci dice che stampare liquidità e quindi comprare debito dei paesi sovrani potrebbe far ripartire i consumi interni? Cioè, forse qui non c'entra la Germania, aggiungo io, forse l'unico modo per far ripartire i consumi interni è fare investimenti o di infrastrutture o digitali o quello che volete. Ma voi, infatti, io per quello parlavo delle due armi contemporaneamente, quella monetaria e quella dell'avvio della domanda, e ho detto esplicitamente gli investimenti pubblici. Per cui le dice, se ci fosse anche solo la politica monetaria non e quindi solo il Draghi, che andando contro la Bundesbank, contro la Banca Centrale Tedesca, contro facendo arrabbiare Schäuble, Weidmann e tutti gli altri, inizia a comprare debito dei singoli paesi e stampa moneta, se questo, dice lei, non viene accompagnato però da degli investimenti, da un piano di investimenti europei, resta solo con il cerino in mano Draghi? Esattamente. Cioè c'è tutto solo il rischio e non la sicurezza del risultato. E con il rischio anche poi di vedersi ulteriormente attaccato. Ma è realistico, per concludere Onado, pensare che la Germania accetti non uno ma due cose a cui è contraria, cioè quantitative easing e investimenti europei? Allora, investimenti europei, insomma, non è una cosa su cui sia in principio contraria, insomma, è come la mamma, non si può essere, no? Gli investimenti pubblici, il problema è come finanziare questi investimenti, perché il piano Juncker è un piano molto, molto, molto modesto e basato su, per esempio, su una leva finanziaria enorme, perché con 15 miliardi sì, da 15 lui pensa che ne arriveranno altri 300 di privati. Insomma, però voglio dire, trattandosi di un investimento particolarmente rischioso, perché sappiamo benissimo come funzionano le cose nelle infrastrutture pubbliche. Si fanno dei progetti, poi i costi si aumentano anche senza bisogno delle nostre strade tortuose per la realizzazione delle opere pubbliche, normalmente così. Quindi il problema, voglio dire, è sempre di carattere finanziario, perché non è possibile essere contro le opere pubbliche. Il problema è che qualcuno è contro il modo di finanziamento delle opere pubbliche. Comunque, per ora quello che è certo è che per ora è, poi magari verremo smentiti, i miliardi messi a disposizione da Draghi alle banche perché le girano le imprese non stanno ottenendo un grandissimo successo in Europa. Grazie a Marco Nado e da Sebastiano Barisoni gli auguri di una buona serata, ci risentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi.